Ricordate, la corda deve colmare la distanza tra la cima del pozzo, 30 metri, e il livello dell'acqua, 20 metri. Calcolate la differenza tra questi due valori.